Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di scuola, parliamo di giovani, parliamo di prospettive della società e lo facciamo con Roger Abravanel. Buonasera, dottor Abravanel. Buonasera. Roger Abravanel ha scritto con Luca Dagnese il libro La ricreazione è finita. Scegliere la scuola, trovare il lavoro, edito da Rizzoli. Abravanel è direttore emerito di McKinsey, consigliere d'amministrazione di numerose società italiane e internazionali, autore di altri libri. In passato ne abbiamo parlato anche in questa rubrica, come meritocrazia, come regole e come Italia cresce. Esci con Luca Dagnese, anch'esso partner di McKinsey, attualmente responsabile di Ener per l'America Latina. Quindi due protagonisti della società che conoscono molto bene la realtà delle aziende, la realtà complessa anche delle potenzialità di un paese come l'Italia. La ricreazione è finita. Perché questo titolo, Abravanel? Ma perché forse è arrivato il momento per i giovani e le famiglie di capire che il mondo del lavoro è cambiato, che oggi il lavoro c'è, però bisogna, ogni anno sono 300.000 i giovani neodiplomati, neolaureati che trovano lavoro e che il destino dipende un po' molto più da loro che per esempio dalla crisi e da altri fattori. Quindi nel nostro saggio, provenendo dal mondo del lavoro, abbiamo pensato che fosse utile spiegare come è cambiato il mondo del lavoro, perché la scuola non prepara oggi mediamente a questo e cosa devono fare le famiglie e i giovani per prepararsi al lavoro e trovarlo. Quindi è una mappa della realtà appunto della scuola e della società, passando attraverso le imprese, che sono poi la cosa principale, perché sono le imprese che danno lavoro. E allora iniziamo dalla scuola. Voi avete un giudizio abbastanza drastico sull'incapacità della scuola di preparare i giovani alle professioni che ci sono e alle esigenze di aziende che stanno cambiando, sono cambiate rapidamente nell'arco degli ultimi anni per rispondere appunto alla globalizzazione, alla tecnologia, alla rivoluzione informatica. Quindi le aziende sono cambiate, la scuola italiana è rimasta ferma. Beh, non siamo noi a dare giudizio drastico, sono proprio i datori di lavoro che dicono che un'altissima percentuale in Italia dei datori di lavoro dicono che i giovani non sono preparati al lavoro e gli stessi giovani sono d'accordo, e invece i docenti, sempre questi nei sondaggi, dicono il contrario. E quindi se i docenti e gli insegnanti pensano di preparare i giovani al lavoro, però così non è, allora c'è un problema di cambiamento. Il cambiamento fondamentale si spiega col fatto che oggi ciò che i datori di lavoro vogliono, anche per un neodiplomato o un neolaureato, è molto diverso da quello che si voleva nel secolo scorso. Nel secolo scorso si voleva un mestiere, una specializzazione, il saper fare qualcosa. Oggi contano molto più la personalità, l'impegno, la responsabilità, il fatto di poter lavorare senza un capo, il fatto di saper risolvere problemi pratici e il fatto di poter lavorare con gli altri. E sono tutte cose che la scuola italiana mediamente non insegna, perché è rimasta la scuola del secolo scorso che ci deve insegnare o un mestiere o una specializzazione. Ecco, ma in questa prospettiva voi parlate anche dell'università e del fatto che l'università produce, è un brutto termine, ma diciamo sforda, laurea molte meno persone rispetto ad altri paesi, però in Italia la quota di disoccupati è forte anche tra i laureati. Come si spiega questa contraddizione? Beh, guardi, in Italia l'università conviene ancora, perché se va a vedere il tasso di occupazione di un laureato dopo un anno è più alto di un diplomato e di un non diplomato. Il problema è che questo non vale così nella media, perché ci sono delle facoltà e delle università nelle quali questo avviene più facilmente, e noi abbiamo tutta una serie di miti, peraltro il mito per esempio della laurea utile. Se lei prende la laurea utile, tipicamente economia, però se uno va a studiare alla Bocconi, 93% ha possibilità di trovare lavoro, anche la Ca' Foscari, ma se uno va in un paio di università peggiori che abbiamo evidenziato nel nostro libro, che sono purtroppo nel centro-sud Italia, le probabilità sono 30%. La stessa ingegneria. Io sono ingegnere, tutti pensano che gli ingegneri trovino lavoro, non è così, 50% sono disoccupati in altre facoltà. Peraltro la sorpresa è che alcune facoltà, come per esempio lingue e lettere, dove a Ca' Foscari il 70% dei giovani si laureano e trovano lavoro. Quindi il problema è molto e molto quale università. Certo, quindi diciamo il tema anche del valore legale del titolo di studio è un po' superato, di fatto totalmente non esiste superato. Più. È fatto... da sempre, per me è superato da sempre, non c'è il problema, non è tanto il valore legale, ma è quale laurea si prende e dove, soprattutto dove, perché il valore di questa università è un valore molto più di selezione. I datori di lavoro oggi guardano l'università più come una capacità di selezionare i giovani, sanno che queste università migliori selezionano i giovani migliori, altre università non le guardano neanche. Ecco, in questa prospettiva c'è anche un tema di fondo, che è il tema del rapporto tra scuola e lavoro. Nella riforma che si sta discutendo c'è un incentivo alle scuole, c'è un obbligo per le scuole di fare sì che l'alternanza scuola-lavoro diventi qualcosa di più concreto rispetto al passato, un po' sul modello tedesco, dove questo sistema aiuta moltissimo i giovani a entrare in contatto con la realtà delle imprese e poi le imprese anche a conoscere i giovani e a poterli in prospettiva assumere. Pensa che sia un tema importante questo del rapporto e dell'alternanza scuola-lavoro? Guardi, l'ho affrontato nel libro. Io non faccio in questo libro proposte di politica sulla scuola, l'ho fatto in quelli precedenti. L'apprendistato all'italiana è totalmente diverso dall'apprendistato alla tedesca. L'apprendistato alla tedesca è un apprendistato in cui un giovane a 16 anni metà del tempo lavora in un'azienda che non è solo manufatturiera, perché insegnano a usare le mani e le fabbriche, ma impara a lavorare nell'azienda, impara cosa vuol dire le cose che dicevo prima, no? Le competenze di lavorare con gli altri, risolvere problemi. In Italia si fanno quelle che io chiamo spesso visite allo zoo, si porta i giovani a visitare i giornali, le aziende, e poi invece quando sono laureati già o diplomati vanno a fare questi stage che sono un modo per non pagare i contributi. Infatti le aziende sconsiderano l'apprendistato, le aziende italiane, una totale perdita di tempo. Nel saggio spieghiamo bene invece come fare l'alternanza vera scuola e lavoro, certo, che vuol dire trovarsi occasioni serie per poter fare lavoro. Una delle opportunità, per esempio, è il volontariato. Ci sono oggi, grazie a Internet, delle opportunità straordinarie di fare volontariato all'estero, di fare esperienze straordinarie che insegnano queste competenze che vengono apprezzate molto dai datori di lavoro. Abbiamo un sacco di storie di questo genere e di suggerimenti utili del come contattarli. Ecco, c'è un termine che ripercorre un po', diciamo, quasi in tutte le pagine del libro, è quello soft skill, cioè di competenze morbide, di competenze leggere, e sono quelle che sono il fattore vincente per trovare appunto un lavoro da parte dei giovani. Che cosa intende per soft skills? Beh, soft è per alternativa hard, se vuole. Hard è una cosa dura, misurabile. Hard che cos'è? È saper progettare qualche cosa, e saper, che so io, fare il perito, è una specializzazione, no? E le soft skills sono quelle cose un po' più difficilmente usate. Per esempio, una soft skill è la capacità di l'etica del lavoro. I datori di lavoro oggi vogliono che un giovane se la cavi da solo, anche quando il capo non c'è. Si chiama etica del lavoro, sia responsabile, no? Certo. Un'altra soft skill molto importante è la capacità di lavorare con gli altri. I datori di lavoro, un giovane anche capace, specializzato, che però si mette le dita negli occhi al primo con cui ha a che fare, non lo assumono, preferiscono una persona meno preparata, perché tanto li formano loro, la specializzazione insegna il mestiere, ma qualcuno che vada più d'accordo. Comunicare, la comunicazione, la capacità di comunicare è una cosa fondamentale, perché si ha a che fare con i clienti molto di più, no? Pensi un giovane che sta in un negozio, che insegna in un negozio, deve essere capace di comunicare bene. Se invece non, queste sono le soft skills, in alternativa alle hard skills, che sono proprio il sapere qualcosa di duro, di competenza. Il know-how, come dicono quelli che parlano inglese. E quello che la gente non ha capito è che nella società di servizi oggi è molto più importante che il secolo scorso, e noi, in quanto venendo dal mondo del lavoro, lo sappiamo. Guarda, nel secolo scorso cosa si chiede? Prende una fabbrica di automobili, si chiedeva all'operaio, dice tu fai una certa procedura, eseguila, no? Prende invece una detta check-in di un aeroporto, devi improvvisare in continuazione perché c'è la cancellazione dell'aereo, il ritardo, il bagaglio non si trova. Se ogni due per tre deve andare dal suo capo a chiedere cosa fare, certo, deve risolvere. E oggi il mondo del lavoro è tutto così. Ecco, in conclusione conclusione del vostro libro, ricordo la ricreazione è finita, c'è un decalo, in realtà sono nove punti, nove elementi di riflessione per dare ai giovani un'indicazione di strada, fare le proprie scelte per convinzione, non per fatalismo, non cercare mai alibi, conquistare rapidamente l'indipendenza dalla famiglia, abbandonare la comodità, non aver paura di fallire, scoprire in fretta le proprie passioni, scegliere le scuole da veri clienti dell'istruzione, costruirsi una reputazione personale e, da ultimo, diventare cittadini del mondo. Ecco, diventare cittadini del mondo, messe appunto insieme tutte queste indicazioni sicuramente ambiziose ma importanti, diventare cittadini del mondo è forse la cosa fondamentale. Ma, per me, guarda, la cosa fondamentale è proprio la prima, quello di essere in controllo della propria vita. Noi raccontiamo tante storie di giovani che si sono ribellati a questo mito della famiglia che determina per te quale scuola fare, perché il papà voleva che tu facessi, ha fatto il liceo, vuol che lo fai anche tu, oppure ha fatto il professionale, vuol che lo fai anche tu. Ci sono giovani che hanno capito già a 14, 15, 16 anni che cos'era la loro vera passione e l'hanno fatta con la testa propria. Questa è la vera proposta. Il nostro saggio è diviso in tre parti. La prima parte spieghiamo perché il lavoro è cambiato, la seconda perché la scuola non è cambiata e la terza diamo dei suggerimenti concreti a questi giovani nel scegliere le scuole, liceo piuttosto che istituto e quali, come scegliere le migliori scuole, le scuole non sono tutte uguali, l'università e prepararsi al lavoro. Però questo lo devono fare loro con la loro testa in funzione della propria passione, delle proprie capacità. E non farlo fare ai genitori. Diventare in fondo imprenditori di se stessi, avere la forza di volontà, ma anche in fondo l'ottimismo di pensare che la società non è una società che respinge, è una società che invece ha bisogno di nuove professionalità. Grazie Roger Abramanel. No, grazie a lei. Grazie a voi. Grazie di averci parlato del suo libro, un libro molto utile per chi, soprattutto per i giovani, ma anche per le famiglie, anche per i genitori, per capire i giovani di oggi. La ricreazione è finita, questo è il titolo, scegliere la scuola, trovare il lavoro, edito da Rizzoli, sono 306 pagine per 18 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per sabato prossimo.